perché non si capisce, due, ha mandato tante che d'acqua, ma non fondo a solo, non pezzo da fondo, come a quattro ruote strane, davanti ai miei occhi che niente più mi è fatta, oh, ho usato acqua almeno, almeno 15 metri all'aria, o fondo, dall'acqua, ma nei tuffo, tuffo, tuffo un fiume che non si capiva. Giorno 2, non mi posso mai dimenticare, di martedì, noi è una, siamo muta a fare, siamo fatte bene. E se però ma poi sì, ma è stato fatto prima, quando sono andato io. Allontanati un po' che mi stanno a giocare. Antonio, allontanati. Signor Pomponio, eh. Ebbè, Antone. Ebbè, Marco. Sì, appena finito di mangiare, quasi, da mezz'ora, no, quasi mezz'ora. Quindi sono, beh, mi sto per pigliare uno yogurt al limone. Fatta la giornata, fatto il pranzo, cioè. Sì, ho fatto, cioè, pranzo, ho fatto la cena, cucinato. Ci sono i fusilli con le, vabbè, fusilli, come li chiama tu, le mezze gambe del pollo con le patate, ho fatto, al fornetto. Cosa hai fatto, hai detto, come pasta, fusibili al... No, le gambe del pollo. Ah, fusi, volevi dire i fusi del pollo. Fusi del pollo, così è. Sì, fusi del pollo. Anche devo fusibili. Vabbè, tu sei tecnico anche, no? Ti puoi fare fusilli alla parmigiana, cosa ne gioco io? Ah, ho fatto quelli, ho fatto adesso con le patate. Stavolta me le mangio, anche se non potete neanche mangiarne, ma le mangio lo stesso. Sì, quindi fusi di pollo, e poi fusi, adesso non mi ricordo, non mi viene che parte è. Io di solito prendo sovracosce oppure coscette. E fusi, che parte era? Non spero che guardo. Sono quelle prima delle cosce, hai capito? Le cosce delle coppe sono quelle più larghe, questi sono quelli più stretti. Allora, se metto fusi di pollo, perché mettere cosce? Io ho scritto fusi, voglio vedere i fusi. Niente, metto fusi di pollo, mi mette solo cosce di pollo. Sarà un nome di chiamarli così, boh. Tutto cosce. Esatto, sì, vabbè, sono più piccoli, sono, ma comunque sono cosce lo stesso. Hai capito? Ehi, ehi, io sto uscendo nudo e crudo, col baracchino sempre tre e mezzo modulati, cioè, modulati pure. Questi omologatini, questi piccoli omologati, ho notato che di questi tempi li danno sempre meno watt. Addirittura il Polmar tuo esce a roba di un 2 watt. Questo ne va 3, nemmeno 3, mi ho dovuto aumentare a 3,5, cioè almeno per essere quasi a filo dei 4 watt omologati, ma non ci è arrivato nemmeno. scappa. Non ci arriva, non si vola niente, ragazzi, ho speso 70 euro per spedizione cosa? Mi sono girate pure le balle, mi sono girate. No, non facevo già, non è che ti ha svezzato con l'apparecchio. Ho dovuto metterci, ho trovato un Bobby con 40, con il microfono, ci ho messo quello e funziona bene. L'unico che funzionava bene, a parte le, come si chiama, il microfono amplificato, il DM1000, l'altro non andava bene. Non puoi modificarlo in trasmissione, perché se lo modifichi in trasmissione, in AM, non, cioè in AM esce, in FM non esce più, hai capito? Poi l'AC non ce l'ha, quindi a un certo punto ho lasciato così com'era l'originale, va a fanculo. Ho preso, ho regalato, l'apparecchio, la canna da pesca che tanto non usavo, era diventato quello da, che ho comprato dai cinesi, 20 euro. Perché mi ero girato proprio le balle di Verello quel Midran. Poi l'ho regalato a Antonello dove lavoravo in campagna. Quindi immagina di tu, e mi ha fatto anche piacere regalarglielo, capito? È stato, è un amico, anche se non ci posso più scendere in campagna perché c'è Simona che non sta bene e quindi non posso lasciarla da sola, quindi ho abbandonato un po' la cosa, se no ho avuto sempre lì 5 minuti al telefono, hai capito? Sto male, a un certo punto l'ho dovuto mollare tutto. Via. Io in campagna da mia zia, perché la casa è sua poi, non è mia, avrei voluto fare delle prove. Allora, per esempio, in macchina arrivavo da Bancali, diciamo che la parte di Bancali è un po' più vicina a Sassari, è l'inizio di Bancali, dai. Però arrivavo senza problemi a Sassari, intorno a 9, 9 più, oppure intorno a 9, dai. Due stazioni mi hanno dato il controllo. Se si mette la Venom, che io ho sempre da parte, quella che avevo comprata nuova e avevamo collaudato col profeta, no? A costo di metterla in modalità, come dire, provvisoria, col portaombrellone, quello di metallo, con le quattro gambe, quattro piedi, no? A croce si apre ed è molto stabile, anche pesantuccio. Ci mette un palo da 4 metri, telescopico, poi se lo trovo da 6, anche da 6 metri, anche se da 6 metri già il piedistallo non stare tranquillo, e fare delle prove come se fosse messa sul tetto, capito? Poggiarlo a terra, il piedistallo col palo, e fare delle prove così, vedere come rende. Puoi fare così anche, se no ti buschi 4 blocchetti, capito, li metti intorno, anzi 4 blocchetti, basta un secchio di quelli di tempera. Ci metti sabbia, cemento, cucchiaia, ci metti il palo al centro, sta tranquillo che non lo togli più, non si muove, capito, gli fai un fosso nel terreno, no? Sta tranquillo quel palo non si muove più, non puoi lasciare anche lì l'antenna, poi mettici un palo da 6 metri, non si muove. Sì, ma più che altro era per fare la prova, questo portaombrellone, molto valido però, se devi fare attivazione così, che ne so, vai in zona, io per esempio sarei voluto andare a Florinas a fare le prove, c'è un punto particolarmente alto del paese, che lì sicuramente arriva bene a Sassari, certo sono 20 km però, magari le stazioni base insomma dovrei arrivare. Se no, al limite, poi se servisse installarla, si cambierebbe quel palo che lei ha messo per la TV, un palo sottile, di quelli fini fini, proprio per TV, no, è più rinforzato da una specie di paletto di legno, e lì basta sostituire questo accrocco che ha usato lei con un palo telescopico, meglio ancora, un tubo innocenti, e da lì non scappi, tubo innocenti, e ci metti l'antenna in punta, metti la Venom, e appena più giù, come qua, come ce l'ho qua sul tetto, poco più giù, tipo un metro sotto, ma anche un metro e mezzo sotto, metti la l'antenna della TV. Scusa, anche così si può accedere con la campagna quando vuoi, come vuoi, sì. Se ci vai una volta all'anno, già una frutta. A un certo punto ti come uno di quei portabelloni di bar, che sono pesanti e ti va bene lo stesso. Beh, lì, no, no, una volta l'anno no, più spesso anche, infatti così, non c'è che debba mai servire, eccetera, tanto vabbè, non, cioè, per il prezzo che ha già si può lasciare lì, poi se ne va la pazienza, però, se si piazza sul tetto, lì li faccio quel lavoro come l'abbiamo fatto quassù, la dobbiamo stagnare con l'antenna. I giunti, sai cos'è, viene un po' male, perché con quel cacchio di fascette c'è sempre il lembo in eccesso della fascetta, anche se le taglio un pezzo di quello in eccesso, e quando lo vai a nastrare sempre quello si solleva e non permette, come è successo alla come si chiama con l'antenna schifosa che avevo prima? La Ringo. Oh, allora, con la Ringo, proprio per questi pezzettini di binario che uscivano, la coda della fascetta a stringere, no? Non riuscivi bene a vulcanizzarla, ti rimane sempre un millimetro scoperto e poi da quel millimetro era entrata l'acqua, capito? Allora stavo pensando quasi di tagliare l'eccesso di fascetta, no? Man mano che avvitti, tagliare l'eccesso e poi quello che rimane sollevato mettergli una vitina che si avviti sull'altra fascetta stesso, in modo che la tenga più aderente, capito? O autofilettante o quello che è. In modo da tenerla tutta l'anello bello aderente all'antenna, una roba che sporge e non te la fa stagnare bene, cappa. E lì da stagnare c'è ben poca roba, cioè lì non c'è né bobina, la bobina è dentro, non devi fare nulla, devi stagnare lì gli stili e basta, al limite puoi stagnare dove l'alluminio si connette, dove c'è la bobina lì con la campanetta nera, dove c'è quella bobina ridicola che sembra un rotolo di l'anima del nastro adesivo con quel filettino sottile lì in quell'angolino lì tra l'alluminio e quella campanetta di plastica, li fai qualche giro di vulcanizzante e ovviamente arriva il PL, una volta che avviti il PL del cavo lo stagni anche lì, di più non si può fare lì. Sì, già lo so, ma comunque adesso hanno fatto, c'è un tipo che sta costruendo antenne, ho visto su Facebook ieri, in pratica per farli fatti l'antenna che vuoi, sembra una carico di la come si chiama, la tipo la Firenze 2, sale uguale, ti fai inutile tutti i pezzi e poi la bobina te la metti tu come cavolo ti pare ti piace, hai capito? Puoi farla per la 27, puoi farla per la frequenza decametrica, eccetera eccetera. Adesso non mi ricordo come si chiama, l'ho vista ieri su Facebook. E te la manda l'antenna, tu te la costruisci come cavolo ti piace, ti dà la base, ti dà il tubicino per poter metterci la bobina, hai capito? Eccetera eccetera. Ieri quando l'ho guardato mi sembrava la Firenze 2, giovato, questa la sembra la Firenze 2, sembra. Solo che il pezzo dove metterci la bobina era più stretto, se avessi fatto più largo sarebbe stato uguale alla Firenze 1, avessi messo tutto un rame bello grosso e ti avessi fatto la Firenze 2 uguale, precisamente che avessi fatto. Sì, ascolta, io ricordo che la Firenze 2 aveva una specie di base in plastica, o come dire, delle staffe in plastica, color grigietto o celeste, può essere? No, le staffe erano metallo, le staffe del palo. Poi c'era questo, in pratica il coperchio era in plastica da inserire e si incassava all'interno, ci metteva una fitta e rimaneva isolato, poi ci metteva il silicone naturalmente. Quello lì batteva lo stiro, capito? In alluminio. E so, con la base c'era, gli agganciavi i quattro radiali che ci sono a piazzare. Adesso, si chiama Bavaria, si chiama Bavaria 4 questa antenna, la sta costruendo uno, non so se è l'allevatore o la diavolosia. L'ho vista ieri su Facebook, l'ho vista. Guarda Antone, se riesci a linkarmelo su Facebook, se riesci a trovare l'articolo, no? Il post, quello che e fai, condividi, non so se tu abbia nemmeno più WhatsApp, se non potevi condividerlo con quello me la guardavo con calma. Allora, la Firenze 2, sto cercando le immagini. No, c'è una parte azzurra, ma è una specie di stilo, credo che sia lo stilo della base, cioè la prima parte dello stilo, può essere, dove c'è l'adesivo F2. Quella lì dove c'è scritto, dove c'è l'adesivo F2, lì c'è la carica, c'è. Sì, allora è quella la parte azzurra che ricordavo. Però foto dettagliate io non ne vedo qua. Vorrei una foto dettagliata, ci sono foto addirittura le istruzioni in bianco e nero, no, la pubblicità della Firenze 2. Poi dalla Vega 27 anche, quella telescopica. Aspetta che guardo, ne cerco ancora. L'ho vista ieri, l'ho vista. Questa cosa qua, si chiama Bavaria 4. Che puoi costruire in pratica l'antenna come vuoi, lui, anzi, forse te la costruisce lui, non lo so. Perché lui c'è scritto di qualsiasi tipo di frequenza, 27 oppure elettrometrica, eccetera, eccetera. Comunque il coso te lo fa tutto lui, la parte metallica, la parte plastica, ti farà lo stilo anche senz'altro, questo non lo so. Comunque c'è scritto Bavaria 4, c'è scritto. L'ho visto ieri, l'ho visto. Magari se glielo chiedi, mi serve l'antenna per la 27, dici per la 27 MHz, me la costruisci, chiede lui e ti costruisce come, tutto quello, lo stilo, eccetera, eccetera, lo fa tutta misura, compresa anche la carica, poi te la manda, hai capito? Costruisce lui, è un animatore, c'è la sigla, ma non lo ricordo. Ehi, aspetta, ripeti il nome dell'antenna, com'era? Bavaria 4. Ehi, aspetta, insomma, Bavaria 4 antenna CB ci aggiungo, dai. Però mi ha detto che la puoi fare anche multiband, io metto antenna CB, vediamo se esce. Allora. Controlla un po', magari c'è anche su YouTube qualche filmato di subito, e metto su YouTube anche, lo sai. Bavaria 4, c'è la sigla di 1M, c'è, la costruisce lui. Avanti, vuole entrare. Assista, Torello Tocconio, cambio. Dimmi. Ah, mi ascolti a quell'FR. Già ti ascolto. Coordinato, porta a torre, c'è la parte lì, a Torre, cambio. Ti arrivi bene, 9-5. Breckes, avanti. Buonasera a tutti, doppio room. Avanti Gianni, invece Marco Condor e poi Collum, poi mi sto mangiando la banana, la foca, Marco California. Sì, io mangio banana e tu mangi. Città, avanti Marco. Ciao Gianni, ben entrato. Ma io Franco non l'ho sentito, scusa, aspetta. Fai un passaggio. Aspetta, non sarà l'auto squelce per caso. Già, mandalo avanti. Sì, avanti Franco. Mi ascolta, cambio. Sì, allora, Franco, ti copio bene, però l'autosquelce, siccome c'hai un'emissione molto molto larga, lo interpreta come quasi QRM e chiude, non mi ti fa ascoltare, allora ho tolto lo squelce. Adesso ti ascolto bene. Fammi vedere il segnale. Coordinate, portatore, c'è la partiria. Spegna. 8, Sania alle 8 come stamattina, ma il punto è lo stesso. Capri positivo, via Sassari, la parte via. Eia, ma whisky quanti? Normale, nudo e scappellato oppure aiutato? Negativo, normale, con i fatti suoi, cambio. Direi ottimo. Ascolta, io con 3 watt e mezzo quanto è il segnale? Grosso modo, guarda un po', 1, 2, 3. Non pervenuta. Attento Franco, se ascolti qua, questa via. Aspetta, forse sta facendo manovra, boh. Ciao Natale. Ciao. Attento Natalino, ascolti questa piccola modulazione da Porto Torres, cambio. Eia, eia, già ti ascolto, tutto con lecca, lecca, gava, gava. Chiave 9, 10, qua, portatore, c'è la tariffa, è arrivato, gava. Marco, rapporto per te, Santiago, 9, 5, cambio. E aspetta che ero con 2 watt, guarda se mi ascolti adesso. Com'è che arrivo, gava, gava? Tutto sotto controllo. Santiago 9, 10, 9, 15, 4. Aspetta, quanto ero io da liscio, Franco? Guarda un po', che non me l'hai detto. Ma non mi sentono. Gianni, riprendi. Santiago 9, a 9, 5, Marco. Io guardo 9, intorno a 9, 9, 5, vabbè, 9, dai, 9. Ok, e beh, buono, meno male che arrivo, dai. Gianni 9, 25, a picchi di 9, 30, cambio. Già va bene allora. Eia, Gianni è fortunato che c'è il mare davanti. Gargara e Gargara, dai che sono chiudendo, farà la commissione con il risalto. Grazie del rapporto, volevo sapere se la radio va bene, la mia, cambio. È fortissima. Gargara. Cattolino gli arriva a 9. Fra Maggiolata, sì, di Porto Torres, dove c'è al faro? In via Sassari, adesso. Ah, via Sassari. E allora? Che andiamo a fare una commissione in Chivi. Se c'è niente tutto, me. Cosa deve dire lei? Dica, dica. Mamma mia, questi birichini. Dice se birichino anche tu, mi. Franco, ma non mi sento. Chiappa, chiappa. Vabbè. Ah no, scusate. Buonasera Luca. Luca, quella molla. Ciao a tutti, è la molla di quella quadratura che sto facendo, la bobina di sintonia. Ah no, perché io l'ho vista ma non capivo cos'era. Per non stare sempre a chiedere, questo cos'è, questo cos'è? Tu scrivi una descrizione sommaria, o anche parlando. Vabbè, ci manca ancora il condensatore, eccetera, eccetera. Il commutatore, eccetera. Oggi è una giornata di stretta, dai, non è male. Cazzo, me l'avevo fatto io un accordatore, chissà che fine ha fatto, era bello quell'accordatore che avevo fatto io. Io sto ancora piangendo, l'MFG, che adesso costerebbe un capitale, potevo provandolo, ma ormai è stato rivenderlo, come se l'avessi comprato nuovo, l'avrei vendendo a metà prezzo, avrei guadagnato quasi quanto costava prima nuovo. Figurati. Iaia. E adesso sono io senza accordatore, che... Ma tu ce l'avevi lì, quello lì? Perché l'hai dato? L'ho dato perché mi era caduto in terra un amico mio e l'ha rotto, e allora gli ho dato il mio. Quanto io non c'ho più nulla di quelle cose lì. Vabbè, però, privarsi anche però delle proprie cose in funzione di altri, no. Se tu avessi avuto un altro accordatore, allora sì, ma privandotene tu, vabbè che l'antenna tua è stabile, problemi non ne ha, di stazionarie. Infatti, purtroppo che c'è l'antenna messa male. Va bene. Mi è rimasto solo il rosmetter bulle 6200, mi è rimasto e basta. Natali, aspetta, no, che ore sono? Non c'è orologio, aspetta, c'è il cellulare. 4:30 quasi. Ah, sì, ok. Ascolta, ho mandato a Gianni la fotografia, Gianni W. Così Gianni te lo manda a te, dai. che fotografie? Di questa antenna che costruisce questo rilevatore. Sembra la Firenze 2, sembra. Se la guardi, te l'ho andata adesso, te l'ho andata. Chi la fa questa? L'animatore la fa. Capito? No, usato base per l'antenna, le costruisce lui. Mi guardati, c'è anche come si chiama. Te l'ho andata adesso. Perché non ce l'hai più il numero mio? Antonè, non ce l'hai più? O WhatsApp tipo? No, non ce l'ho perché cazzo ho dovuto resettare tutto. Era un casino. Se la guarda Gianni sembra la Firenze 2 di una volta. Cioè disegna, c'è. Tanto Gianni ha il numero il coso tuo e te la può tranquillamente mandare. Gianni! Non c'è Facebook, boh, sopra vado su Facebook mi. Allora guardi su Facebook non c'è problema. Solo una volta, la trovando adesso. Eccola qua. Si chiama Luongo Crescenzio, lui si chiama. Base per antenna CBOM in inox pesante con isolatore in Lenax, in Lexan, foro 32 mm per 98, prezzo 12 euro, spedizione postale eccetera eccetera. Se la guardi, poi c'è il disegno, c'è, se tu guardi, sembra il disegno della Firenze 2, tale uguale, cazzo. Marco, qua che te l'ho mandata su WhatsApp. Sì, l'ho aperto. Allora, Luongo Crescenzio. Allora, ci sono delle immagini. Isolatore in Lexan. Vabbè, sempre roba di nylon sarà. Questo sicuramente i pezzi di plastica e non solo, se li fa con la stampante 3D. È una figata sapendolo usare. Ti costruisci i pezzi, addirittura si fanno i fusti delle armi, delle Glock, qualcuno è simile, se le fa con la stampante 3D. Natali, niente le sai. Non mi dica a me su questo argomento, non mi cercare. Cazzo. Cioè lo fanno, costruiscono i fusti, oppure le altri dettagli in plastica, se le fanno la stampante 3D, incredibile, guarda. È incredibile. Tutta la pistola non faccio, cazzo. Di acciaio c'è solo quello che ci va dentro, e il carrello e la canna e la molla, con reggimolla. Misurarsi è plastica, cioè plastica, polimeri. Sì, vabbè, io dico plastica, sì, polimeri, tecnopolimeri, io dicevo tecnoplastica. Sì, te lo ricordi quando dicevo che avevo la pistola di plastica, non ci volevano credere. Mamma mia, per vedere i dettagli di questa antenna vuole che mi registri, io non mi registro su Facebook, non me ne frega niente, a me i social non mi piacciono. Se no non sarei fatto il baracchino. Comunque se ti guardi il disegno come a fianco, sembra la Firenze 2 quando l'hanno costruita, se guardi bene. Poi in pratica penso che glielo puoi chiedere a lui di costruita, non è che dia solo quei pezzi lì, in plastica con la staffa in metallo per poter agganciare. Io penso che se tu gli dici guarda volevo un'antenna per la 27, me la costruisci la bobina eccetera eccetera per 1000 watt e cosa del genere, io penso, io ho guardato il disegno, cazzo, il disegno è l'antenna intera, sembra una Firenze 2 uguale, sembra. Sì, guarda, lo vedo in piccolo perché se clicco mi chiede l'accesso. Ma la Firenze 2 cos'era? 5 ottavi o mezz'onda? No, se non ricordo male era una mezz'onda, non volevi ti cazzate, perché era lunga 5,50 metri, era lunga. Poi c'era la bobina interna, c'era, che era grossa, non molto, il rame, flatto, quindi la città qua, quello non è difficile acciapparlo, quel tipo di rame lì, e poi sotto c'era quella pittina che tu ricordi che ti sollevava o ti abbassava la bobina per regolare la stazionale. cassa è mezz'onda perché è radiali. Che c'entra la cassa? Anche la mezz'onda c'è, perché la sopravvivenza questo non c'è radiali. Eppure è la mezz'onda, gli è tardi contra. Beh, anche la Venom, la mia Venom mezz'onda gli hanno messo i radiali, non so per quale motivo, la mezz'onda non ne ha bisogno. Cosa ne so, magari servono a abbassare appena appena l'angolo di radiazione, voglio sperare. Non posso dire, comunque sia, secondo me, cioè va bene come antenna, ma lì andrebbe bene, sai cosa fare? Prendere la... l'ostino, piazzarlo lì, la bobina che c'ha la come si chiama, la via 27L, modificarla, metterci al rivento e esce una bella antenna, esce. Sì, comunque ricordate che anche se la Firenze 2 è alta 5,5 metri, non vuol dire che sia mezz'onda, semplicemente potrebbe avere un po' più di bobina e raggiungere elettricamente sempre i 5 ottavi d'onda. Per esempio anche la Vega 27, che era telescopica, ce la potevi chiudere proprio come un'antenna telescopica, erano 5 ottavi per la 27, però anziché 7 metri era credo 6 metri o giù di lì, con 4 radiali, però quella era proprio 5 ottavi dichiarata. Semplicemente l'hanno fatta un po' più raccorciata e un po' più di bobinetta, tanto da raggiungere i 5 ottavi, tutto lì. Ho capito. E vabbè, non costa niente. Era falaglia, allora dici, ma queste antenne che tu costruisci sono, dai solamente i pezzi di metallo con la plastica, oppure li costruisci direttamente tu? Non costa niente, chiedo. E se è costruita, quanto è che devo spendere? Perché lo sai, l'alluminio costa, quindi a un certo punto ti dirà quanto costerà, cosa adesso. Comunque c'è scritto Papalia 4, c'è scritto. È come se assomiglia un po' alla Firenze, come per dire, sembra la Firenze 2, ma non lo è. Hai capito? Ascolta, chi c'è rimasto qua? Gianni, Natalino, Luca Flipper, chi altro c'era? Todos muertos. C'ho un bruciore all'occhio qua. Come già? Che mi sto abbioccando, c'ho questo bruciore all'occhio. Aio, ravvivati un po', ravvivati. Stiamo parlando di antenne. Ho già queste antenne qua, allora le Venom, che sono delle antenne proprio risicate al massimo, lì in Inghilterra ne vendono a pacchi, anche marcate in modo tipo Thunderbolt o XY, no? È la stessa porcheria della Venom, ma loro la dipingono come una super antenna. Probabilmente non hanno mai visto una Mantova o una Mantova 5, quelle erano antenne con la maiuscola. E addirittura non tengono watt quelle antenne, perché c'era Franco, ha detto come sale i watt, si salgono anche le stazionarie o me, vuol dire non tenere i watt. Natalì, quanti watt te l'ha detto? Perché? E questa è diversa la mia c'è la bobina più grossa, mentre la Venom ha la bobina un filettino sottile, ridicolo, ridicolo. Lì 100 watt magari li puoi dare. Certo, se ne metti 300 continui in AM comincia a diventare una cosa ambigua. Magari 300, come sale poco poco i watt, lì salgono le stazionarie a 2, ha detto. È la bobina che non tiene watt perché la sezione del cavo è troppo fine, capito? Non tiene niente. Se lo usa con 2 watt dice già a 1 e 2 ce l'ha, ma come sale poco poco guai, mica può usare 100 watt con quell'antenna. Ma quanto, cioè, con quanto salgono? 4 watt, 5 watt li salgono le stazionarie o no? O di più? Dopo i 5 watt salgono, perché non tiene watt quell'antenna, è uno schifo. Infatti c'ha l'antenna uguale alla mia, se la vuole piazzare per quello, come riesce a piazzarsela, perché non può salire i bassi con quella lì. Quella lì è un'antenna del cavolo proprio. Eppure, che strano, io ricordavo che il profeta, quando ha usato questa Venom che ho in busta, lui ne ha messo 4, 5, forse anche 8 continui in AM, se non di più, adesso vi ricordo se lui aveva anche gli utili, ma lì stazionari uno sta uno, tutti i 40 canali, non si muoveva di un millimetro. No, forse la tua c'ha la bobina più grossa, quella che c'ha Franco, è proprio così, e se no non se l'avrebbe cambiata, no? Perché lui dalla zona che ha esce forte, capito? C'è una zona strepitosa, Franco, mica ci avrebbe cambiato l'antenna, solo è per le stazionare, perché lì salgono le stazionare, deve tenere l'accordatore attaccato, capito? Non è altro. Ma lui no, non ha muri aderenti all'antenna, no? E ce l'ha libera proprio, a 360 gradi è libera. Liberissima, ed è in una zona invidiabile. Infatti si vede questa antenna con i radiali piccoli, ma evidentemente c'ha problemi alla bobina. Sicura, se non tiene i ratti per niente, boh. Più che quello non è, è la bobina che non tiene il ratto. No, ma infatti se Franco si mettesse un'antenna come quella che ha Gianni, come si chiamava la tua? Super Lem. Super Lem, comunque 5 ottavi quelle di punta, modelli ammiragli, oppure una Grazioli se proprio vuole spendere. Lì diventa la nuova torre di controllo, eh. Ah, se parla Franco non ce n'è per nessuno, se mette un'antenna. No, ma vuole piazzare un'antenna come la mia, vuole piazzare, che ce l'ha lui, e ha detto la vuole piazzare così almeno non ha problemi né di guerreme né di stazionari, perché guarda, quella che c'ha lui fa proprio schifo, ha detto, e non è soddisfatto di quell'antenna. È vero che se la vuole cambiare, se no non c'era stato bisogno di cambiare il motore della barca che avevo io lì, mortacci, Yamaha, guarda, è bello. Antenne di gomma ci vogliono. Io ce l'ho di caucciù. Io di poliuretano espanso. L'altro giorno andava bene la mia, quella di caucciù, perché stavo trasmettendo in orizzontale di quanto era piegata dal vento. Gianni, Mara, ti ricordi l'altra sera di quello spagnolo che arrivava a bomba e noi dicevamo che era una presa in giro, che era in macchina? No, erano reali. Allora sono andato sui vari canali, il 27, compreso il 18, allora non c'era QRM, non c'era quasi un filo di QRM, arrivavano gli spagnoli che erano in locale, certi segnaloni, passavano da 0 a 9.10, 9.15 su questo smitter che per voi sarebbero fondo scala, ma una cosa mai vista, cioè poco QRM, però questa propagazione che si apriva, erano terribili i segnali, ed erano questi spagnoli tutti in FM, sia sul 18 che sugli altri canali, era autentico quello lì, era vero, non era una buffonatura. Cavolo, se arrivavano gli spagnoli. Però ho l'impressione che ho qualche problema con questo baracchino. Devo decidermi a attaccarlo al wattmeter, a vedere quanti watt mi dà in SSB, o sai che abbia i watt chiusi, perché con quell'altro chiamavo e mi rispondevano subito, con quell'altro preciso a questo. Quindi tu pare che non mi intendiani, con la potenza al massimo, non mi sentono. Sì, avete ripreso in due e Gianni ripeti. Non mi ricordo cosa ho detto. Della propagazione folle che c'era, niente QRM e propagazione. Io ti avevo detto che era tutto vero, non era una macchina, capito? Sì, ho capito. Beh, magari c'era propagazione per loro e per noi no, perché non ci sentivano. No, io ho provato sul 18 a dire due parole, tipo hola hola, oh hola, quanti hola, non so che cosa, capito? Rispondevano e come? Rispondevano so che. Perché allora non sentivano a me. Ma sicuramente ci avevano anche lì questi locali. Ma bella l'altro giorno, qui in FM era già, non una telefonata, di più, sembrava che fossero in verticale, allucinante. Perché così loro penso che usino anche degli anoni grossi e ci. E chi lo sa, d'altronde loro erano in locale però, cioè non stavano chiamando fuori. Ma si pure che la propagazione fosse particolarmente favorevole, d'altronde noi ci abbiamo il mare lì, fa da specchio tra noi e loro, e quella è propagazione bella, vedi? Non quella costraglia di segnali che c'è altre volte, che non capisci nulla, che chiamano i 50. Bello andare a Malai una sera e metterci a modulare. Come facevano quelli in Porto Torres? Si trovavano tutti a Malai, quando c'erano i baracchi, facevano le gare. A vedere chi arrivava più forte. E più di una volta ne hanno fatto di gare, anche gente di Sassari. Esattamente, però stamattina lo sentivo bene questo qui, un Alfa Tango. Alfa Tango, agita come intera, che me lo scritto, perché me li scrivo sempre. Alfa Tango 1, Alfa Tango 312. E non mi indiani. Ho arrivato già a Radica, chissà cosa, o Marco lì. Non mi sentivano per nulla. Ma tu i watt non li avevi mai misurati quando ti è arrivato? No, assolutamente. Con l'altro Catà, siccome tira la via di Radu, Rubandrono, che su la via Radu, cazzo, come aprivo bocca mi rispondevano tutti. Sembrava che avevo un keyboard, no, un baracchino del cavolo. Magari, cosa ne so, magari un po' chiuso di fabbrica, però i suoi 30 watt almeno dovrebbe averli modulati, fischiando però te li dà. Ascolta, il tuo orosmetro, credo di sì, te li misura i watt P&P? Sì, io ho il Diamond SX200. Allora dovresti metterlo in modalità P&P, provare a modulare in un canale vuoto, a fare lunghi ola oppure fischiare. Quando fischi dovrebbe dare la potenza massima, e se vedi che arriva ai 30, 35, 40, dipende come è settato di fabbrica. Ci sono delle piccole differenze anche tra le marche CRT, tra la marca Nittone stessa, tra la marca Intec che avevo io, no? Ci sono piccole differenze di tarature in base alle richieste della ditta che voleva commercializzarli, diciamo, dai. Perché io non lo voglio toccare questo qui, il nuovo come il 3009, però se cominciano a non sentirmi in banda laterale mi si rompono un po' le scatole. Cosa devo munire? Un linearone, no? Non è mai servita via. Però cavolo, io quando tolgo un apparecchio dalla scatola controllo tutto, watt in AM, watt in FM, watt in SB, adesso poi che ho lo strumento buono li controllo anche picco in SSB, per vedere che funzioni tutto, per verificare che funzioni tutto, no, è ovvio. E se no poi se ha un difetto occulto bisogna segnalarlo al venditore e chiedere se sì, a pochissimi giorni dall'acquisto, forse puoi fare anche il reso, forse dipende, e se no te lo sostituisce comunque se avesse un problema. Però poi se lasci passare i giorni lui magari te lo manda all'assistenza o te lo assiste lui, non so come sia. Io ho controllato solo i watt in AM che me l'avevi chiesto tu, e me ne dava 15-16, se ben ricordo. Sì, non più di 15, credo 13, poi dipende da come è tarato. poi volendo gli si può tirare il collo, ma cioè, stai ammazzando i finali. Uno dice il mio tira fuori, cosa ne so, anziché 15-30 Wm, sì, però ammazzando i finali che ti dureranno pochi mesi, presumo. Invece se l'apparato modula, cioè, lavora piano, tranquillo, poi se uno vuole un derivato ci attacca un 747, un 203 e fatto il gioco. Top. Ti devo rilanciare, doppio room, ci sei ancora? Pomponio per riprendere? Quasi, aspetta che sto facendo una cosa. Due minuti. Ehi, Luca Flipper, ci sei ancora? Beh, pomeriggio, anch'io sono bioccato, mica avevo mangiato prima. Vabbè, ormai è passato un po', però c'ho gli occhi a mezz'asta, capito? Sto ancora digerendo. Il sangue affluisce tutto lo stomaco e poco il cervello. Franco non ha più ripreso. Franco, c'è ancora l'ascolto? Vediamo un po'. E questi baracchinetti non escono di radio nemmeno, mamma mia. Mi viene l'ansia, mi viene. Che ci sono mai? E invece è cucù, il su Icom, e lo vuole 180 euro, ma vai a rompimi le balle. Oh, e dove? È subito.it? No, non è l'Icom, è uno di quelli piccolini quadri banda, come cazzo si chiama? L'Icom, bah. 1991 oggi. Secondo me per avere quel prezzo c'è anche il digitale. Non c'è un cazzo, c'è vecchio che cucù di soldi, ti siamo dei zendi. 1991 oggi. Ah, poi hanno fatto, guarda un po' che cosa strana, la Iaesu invece ha fatto un apparecchio di banda o duo banda, cioè c'è una banda per volta, col design di banda, duo banda di 10 anni fa, però nuovo, senza digitale, solo analogico, VHF, capito? Vedi solo una frequenza in modo da non pasticciare con doppie frequenze, doppi ascolti. Iaesu 991 920 lo voglio. Ma non sta uscendo? Già sta uscendo. Il 991 lo vogliono 920. Là si trova anche 700, 800. Cappa Roger, io avevo la scelta tra il 1200 e il 991. 7003, vabbè, poi ho preso sia uno che l'altro. 9191 mi manca, vedi? È bellino come apparecchio 991. Ah, 991 a. Ah, vanno molto bene, Natalino. Vanno molto bene. Lo so, ma no, non me voglio comprare, da voi mi si piglia la malinconia. No. Va bene questo, gaba. Oh, l'estetica è spaventosamente bello, lo è il 991. Con questo bel display a colori, il solito waterfall, come si chiama, l'aneggiatore di banda lì. Bello, però sempre diciamo, poi alla fine per cosa? Per fare i Dai 27 o per ascoltare ogni tanto i radiatori? Vabbè. Infatti loro parlano e a me mi rode il culo. È vero, io ho abbandonato anche quella radiolina HF lì, quello con cui ascoltavo i radiomotori. Ogni tanto la devo pulire dalla polvere, però non ne sto usando, mi rompo le palle, poi alla fine, vabbè, a me che non ci sia una discussione su antenne, su tecnologie, quando fanno i contest è una palla, quando fanno i DX, 5-9 avanti un altro, 5-9 avanti un altro, 5-9 avanti un altro, che cacchio di ascolto è, vabbè. Allora, you 59 e bu 73, così dici. Che poi secondo me il 5-9, il 9 lo danno d'ufficio, cioè magari uno gli arriva 5 il segnale, 6, 7, 8, sempre 5-9, tutti 5-9 arrivano, che strano. Politico, il 5-9, come dire, sei politico agli alunni. C'era Salvatore che dava anche il 9-20, se arrivavano 9-20. Fazia, U59, 20 dB over 9. pensa che io non sapevo dare i controlli con questi DX27, io dicevo, aspetta, tipo 9-10, 9-10 diciamo, gli avevo detto 9+10. E qua. Io dall'italiano arrivavo tutti sotto il 9, questo era forte, e poi appunto ho sentito da voi che bisognava dire, come dicono loro, poi 10 oltre il 9, cioè 10 past 9. Yes, oppure over the be over 9, dopo il 9, you 5 9, 10 the be over 9. Che così si può dire? No, forse quello è corretto, over 9, non past 9. Past 9 sarebbe dopo 9, mi pare, però credo che sia più corretto over 9, cioè al di sopra del 9, 10 dB al di sopra del 9. Yes, my friend. Zia, cazzo, come ti incendiare, erano nominati per la zia, go ahead, e subito entrava nei cazzo. Era una macchinetta per dire ex, chissà. Io stavo al computer, no, cazzo, ero sul cluster, gli dicevo mi, vai, chi tu, chiamavano nominati per chi tu rispondia, a quel tuo sicuro, noi come c'è da noi, no? Ma questo qui è quello che è mancato? Da quando è mancato? Sì, da un po' è mancato, poverino, cazzo. Era atto, era una macchinetta per dire ex. E avevo fatto la multibanda io per casa sua, e poi infatti una volta che ha avuto l'antenna a casa sua non ci saliva più in campagna, ci siamo persi di vista. Appena ha giovato l'antenna ho piazzato, a chi deve essere chiaro in casa sua, venne di ex a un altro, perché lui non aveva posto, gli mancavano solo gli 80 metri. La mia era più lunga, c'aveva anche gli 80 metri la mia. Infatti in 80 metri uno o due ne ha collegato. Arrivi a Nivondo Scala a casa, ragazzi. KK. E qua infatti, guarda, per arrivare uno in propagazione 9+10, qua è tanta roba. È come dire 9.30 HLK per dire, se non di più. Addirittura a Squalo c'era due giorni fa, era sì, a Squalo gli era arrivato per un istante 9+60, che mi sembra quasi incredibile, eppure gli era segnato lo smitter. Sì, sì, anche a me mi avevano dato 9.60 in Sicilia, lì a Palermo, sono arrivato, dove andavamo prima, ti ricordi? Ah, sì, sì. E lì è più facile anche, no? Ok. Però io avevo l'antenna per lì, Tutti dicendo di vai, arriviamo sempre più bassi di me. A chi avevo l'antenna? Mi avevo fatto l'antenna per lì e cazzo, pompavo di brutto. E anche dalla macchina ce la faccio a porco quella volta, io che fischia avanti, manco fischiato dalla macchina, il mare di fronte, quindi effetto specchio. Io ho quell'antenna lì, cazzo, e me la tiro a spalle adesso, devo venderla a qualcuno, almeno me la faccio i soldi. Usala come flagello, però no, ma tu se vuoi dalla macchina, vabbè che tu dici esco poco, però dalla macchina la piazzi col ricevitorino, non mi ricordo se avevi quello bello col display, o se era come il mio, radiolina piatta, e ascolti il bijou, è lì, basta scegliere la banda giusta col come si chiama, col pirolino che poi li ammetti, col jumper lì. Ah, sì, sì, ho capito, dove ci sono tutti quei furi, già lo so, no, ma non ho intenzione di fare nessuna attività più, non c'ho più nulla, poi mi c'ho l'X data e l'altro per le VU, c'ho, e basta, non va già su, c'ho quei due ricevitori e basta. Sì. Comunque, visto hai il tuo ben amato vicino, ha voluto scocciare e tanto tuonò che piove. Adesso peggio vai tu. Ehi, sono andato con la forbice mia giusicando rugavo. Almeno a scocco si guarda un Kaiser. Si guarda. Ci sarà rimasto discretamente male. Ma può rimanere come gli pare, gli piace, non ho chiamato più, già lo sa chi. E gli altri vada bravo, non rompi mi a stare i cattoli. E se mi dice che lo sto disturbando, guai. Esco col fucile, esco, non me ne sbatte nulla. Aiuto il lato, tum tum. Come dicevano, io conosco, fissato sempre. In sequenza rapida. Tornare che già balla, gazzu. Sì, già ci stanno a palla lì dentro. Senti la propagazione che sale. No, questo che conoscevo io mi pare era fissato di doppietta, no, la doppietta. Quella che credo con due grilletti. No, c'è anche sia con due che con uno, adesso amico. Sempre lui, come faceva il gesto di puntare. E il mio è come la doppietta, Quella pompa, mi. Solo che ce ne stanno sì invece di due. Sì, già. Una curiosità, ma il sovrapposto si può usare per la caccia o lo usano solo per tirare a piattello? No, ci sono quelli da tiro e quelli da caccia. Cambiano le canne. Sono 76 quelle da tiro al piattello e poi usano cartucce deboli, no? Come quelle da caccia, capito? Per sparare al piattello. È un peccato pure a portarlo, lo rovini. C'era quello di mio cugino che costava 12 milioni, costava il Perazzi, figurati, come fai a portarlo a caccia con un fucile del genere? Modificato, addirittura quello di Villino sparava al primo tiro la canna di sopra invece che quella di sotto, capito? Era fatto il calcio su misura, aveva, ui, cazzo, 12 milioni costava. Ultimamente c'aveva la Z90 della Beretta, c'aveva, ma va, chissà, la fusiliva, quello lì, cazzo, non dava mai il secondo colpo, al primo colpo rubigliava, rubiazzello. Ha cotto una giusta al campione olimpico che sta ancora piangendo. Sì, vabbè, uno si può portare un sovrapposto più da pochi soldi, non è che si può portare quelli da Visconti. A proposito, io compravo all'epoca, a fine anni 80, inizio 90, prendevo armi e tiro oppure taccarmi, no? E c'era anche un listino dei fucili da caccia, anche di marche blasonate. Allora ce n'erano certi tutti intarsiati, già erano modelli prestigiosi, più tutti intarsiati, addirittura rifiniture con inserti in oro, 40 milioni di lire di fine anni 80, c'è roba da sceicchi quella roba lì, milioni di lire e non di euro. Sì, ma ci sono anche quelli da caccia sovrapposti, hanno le canne più corte, hanno gli strozzatori diversi, lo puoi portare a caccia, costa di meno, mica ti porti un fucile da tiro, a parte col fucile da tiro ti viene male andare a caccia che c'ha le canne più lunghe e non va bene, perché anche il mio non era rifinito, c'aveva il grilletto d'oro il mio, quello che c'avevo io, te lo ricordo. Aspetta, ma era il semiautomatico di tanti anni fa, quello che avevo provato io. Ehi, cazzo, quello, sparavo una mano con quello, cazzo. Prova a sparare col fucile a pompa che c'ho io se spari a una mano. Ti posso accurare a terra, cazzo. Io mi ricordo che non era così rumoroso come credevo, cioè faceva più rumore l'apertura dell'otturatore che non lo sparo in sé. Ehi, infatti. Cazzo. Quello era da caccia, quello poteva andare a caccia, a tutte le cacce facevo con quello lì.